Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Cari amici, buongiorno a voi, buon sabato. Si aprono le porte di questa casa che non è un albergo e accanto a me, seduto comodamente sul divano buono, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, mentre la gran parte dei nostri ascoltatori si sta ormai giustamente godendo e gustando le vacanze, c'è chi invece le vacanze rischia di guastarsele. Stanno per finire le scuole anche per gli ultimi esaminandi dell'esame di maturità e noi li facciamo rientrare dalla porta posteriore della scuola perché c'è qualche problemino che ancora non è stato risolto. Allora, prima di dare spazio alla nostra rubrica Pensieri di Padre, io voglio presentarvi l'ospite di oggi, che è il dottor Vincenzo Pavoni, autore di Quale Università 2010-2011, edizione Alfa Test, e direttore del centro di orientamento Alfa Test, oltre che conduttore di centinaia e centinaia di interventi sulla scelta post-diploma nelle scuole superiori di tutta Italia. Dottor Pavoni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, noi iniziamo ad occuparci dei ragazzi che non ce l'hanno fatta, e anche lei potrà darci sicuramente un aiuto, e poi invece ci occuperemo subito dopo di quelli che ce l'hanno fatta e devono rimboccarsi le maniche, Alberto, perché poi ci sono i test di ammissione. Insomma, l'estate della matura un tempo era quella in cui i ragazzi se la godevano, adesso invece l'estate della matura diventa per molti un'estate di studio. Bisogna davvero non staccare mai la testa dai libri. Parlavo col nostro ospite prima dell'inizio della trasmissione, studenti della maturità che sognate di entrare in qualche università un po' a numero chiuso programmato. Non so se abbiamo buone notizie per voi. Ma sicuramente buone, anche perché ne avremo anche di buone per i ragazzi che sono, devo dire, almeno di quelli che sento, mi sembrano tanti, ma il dottor Pavoni sicuramente dal suo osservatorio mi dirà se sbaglio. Ci sono anche ragazzi che proprio non sanno Non sbaglia. Vero? Che cosa scegliere? Lei lo sapeva già che cosa scegliere quando era studente? Sì, devo dire che io sono stato tra coloro che, pur in assenza di attività d'orientamento, perché non che sia diplomato da moltissimo tempo, però comunque i tempi non erano così strutturate le offerte di orientamento e di aiuto alla scelta come adesso. E quindi noi orienteremo i genitori all'ascolto per diventare dei coach. Si può utilizzare anche questo termine, certamente, per aiutare i ragazzi a scegliere bene, soprattutto a valutare se le loro scelte sono ben motivate. Alberto. Sì, corrispondono proprio un po' a un profilo che non è solo quello della passione, perché è importante studiare qualcosa che ti piace, ma corrisponde anche alle loro reali motivazioni. Quindi cercheremo di capire se si sono preparati bene per fare la scelta giusta. Ecco, però io ancora un attimo, mi piacerebbe che Alberto raccontasse come ha scelto di fare medicina, perché no, si predica tanto bene, ma poi non sempre si sai che razza. Ne stavo proprio parlando con il nostro ospite prima di entrare in trasmissione, perché lui mi diceva un ottimo consiglio, già cominciate ad annotarvelo, un ottimo consiglio per scegliere la facoltà dovrebbe essere quella di frequentare una o due lezioni della facoltà alla quale vi volete iscrivere e verificare un po' come vi sentite, che cosa provate. Devo dire che a me è andata così. Io mi sono iscritto a Economia e Commercio, ho frequentato due lezioni dei precorsi di matematica e sono fuggito via e me ne sono andato a medicina. Allora io direi, Alberto, di partire dalla nostra rubrica Pensieri di Padre per affrontare un caso, un ragazzo che non ce l'ha fatta e quindi si deve trovare nella situazione di ripetere l'anno scolastico. Nostro figlio è stato bocciato in seconda superiore. Dopo un anno di studi davvero impegnativi, non ce l'ha fatta e lasciatecelo dire. Noi siamo davvero tristi per lui e con lui. Paolo ha studiato moltissimo quest'anno. È stato tutt'altro che un fannullone. Per tutto l'anno ha faticato a raggiungere la sufficienza in latino, inglese e matematica. E alla fine è proprio andato nel pallone, fallendo in tutte le verifiche finali, nonostante gli insegnanti che gli hanno fatto ripetizione hanno assicurato che aveva una preparazione più che sufficiente. Ora non sappiamo cosa fare. Lui vuole iscriversi di nuovo al liceo. Noi non vorremmo fargli vivere un altro anno come questo. Lui ha anche prospettato di voler provare a fare 2 anni in uno. Insomma, cambiare scuola, stessa scuola, 2 anni in uno. Noi non sappiamo come muoverci. Ci potete aiutare? Alberto, una richiesta d'aiuto legittima. Che fare? Più che legittima, e ci sono molti genitori davvero che stanno affrontando questo dilemma per i loro figli. Mi sembra tra l'altro un dubbio al quale bisogna fare particolare attenzione proprio quando i figli sono iscritti al biennio della scuola superiore, perché la domanda principale da farci è: qui abbiamo avuto un problema di orientamento scolastico, cioè il nostro figlio ha fallito e non è arrivato alla promozione perché in qualche modo ha sbagliato a scegliere la scuola superiore, oppure i problemi sono altri e quindi effettivamente rimanendo nella stessa scuola e migliorando qualcosa nella sua tipologia di studio, nel modo in cui viene supportato e aiutato, ce la può fare, può raggiungere il successo. Ti dico che cosa penso io leggendo questa lettera. Da una parte c'è questa discrepanza tra quello che dicono gli insegnanti che hanno aiutato il ragazzo con le ripetizioni, cioè dicono: per noi ha raggiunto un buon livello di preparazione, e quindi sembra che il problema stia lì, nel fallimento poi invece delle verifiche, quando fa le interrogazioni oppure le prove scritte. Apparentemente forse va in confusione, forse si agita troppo, e secondo me il percorso da fare a questo punto è, da una parte, riverificare con il ragazzo quello che è successo e che spiegazioni lui dà al suo fallimento scolastico, quindi che consapevolezza ha rispetto a ciò che è fallito. Secondo me l'altra alleanza da andare a cercare è proprio quella con gli insegnanti che lo hanno bocciato, cioè chiedere un colloquio approfondito con gli insegnanti, per esempio delle materie in cui era insufficiente, e verificare con loro per quale motivo nostro figlio non è mai riuscito ad arrivare alla sufficienza nonostante il suo evidentissimo impegno. Che idea vi siete fatti voi di lui? E il dilemma a questo punto è: lo reiscriviamo oppure dobbiamo cambiare indirizzo? Una scelta che non va presa così in un momento, ma va profondamente meditata. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati veloci, ma per dei genitori non è facile e non si prende sui due piedi una decisione così importante. Quindi il consiglio da dare ad un ragazzo che è stato bocciato nel corso del liceo, il nostro amico, il figlio di Paolo, è stato bocciato in seconda superiore. Alternative che si aprono sono la ripetizione dell'anno nella stessa scuola, 2 anni in uno, cambio di indirizzo scolastico. E io credo che il messaggio che è proprio importante mandare ai nostri genitori è proprio anche questo, cioè che una bocciatura spesso non è la fine del mondo e anzi in molti casi può essere davvero formativa, cioè proprio un momento in cui si riesce a individuare qual è stato l'evento critico, cosa c'era che non funzionava, permette a un ragazzo di rientrare nell'anno scolastico che ha fallito con molte più competenze, molta più consapevolezza, avendo rivisto le proprie difficoltà, individuato le giuste soluzioni, e quindi proprio bisogna sperare in una ripartenza che però non deve essere improvvisata. Ecco, direi che è questo il senso della riflessione che come mamma e papà possiamo fare di fronte alla bocciatura di un figlio. E tu hai detto ripartenza, invece per alcuni è proprio una partenza, e molti ragazzi che hanno terminato proprio il liceo, quindi hanno dato l'esame di maturità, l'hanno superato anche brillantemente e non sanno dove, che cosa fare, a quale facoltà iscriversi. Sentiamo la seconda lettera. Nostro figlio sta affrontando la maturità classica, ma è davvero nel pallone. No, non per gli esami che quasi certamente andranno bene. Lui non ha mai avuto problemi di studio. Nostro figlio è in crisi perché non ha la minima idea su cosa scegliere come indirizzo universitario. È incerto su molte differenti facoltà e tra l'altro infinitamente diverse tra loro. Legge, ingegneria, psicologia. Ci credete che a 19 anni può esistere un adolescente confuso come lui? Vogliamo fargli terminare in tranquillità gli esami di maturità, ma poi dobbiamo partire all'attacco perché rischia di perdere un treno troppo importante per la sua vita. Come dobbiamo muoverci? Dottor Pavoni, le affido questo caso. E questo è un caso interessante perché è l'espressione di molti studenti che, arrivati alla maturità, ancora non hanno scelto cosa fare. E non è un paradosso, anzi è una situazione abbastanza comune, il fatto che il ragazzo che ha fatto bene la scuola superiore possa avere più interessi per facoltà diverse, proprio perché, avendo capacità probabilmente diversificate in tanti ambiti, si sente attratto anche da diversi corsi di studio tra loro non simili. Non è una cosa così preoccupante come forse invece mi sembra di capire dal chi ha scritto la lettera. Papà. Sì, dalle parole del papà. E, è più un bene che un male avere una ricchezza di interessi, se però viene concretizzata verso poi una qualche forma di scelta, sapendo che c'è anche la possibilità di tornare indietro se questa scelta non si rivela quella corretta. Per cui quando il papà dice rischia di perdere un treno troppo importante... Andiamo piano, c'è sempre il treno dopo, certo. Ma assolutamente, voglio dire, se il ragazzo, faccio per dire, inizia ingegneria e poi si rende conto che in realtà non va bene e riprova l'anno dopo con legge e la fa con soddisfazione, si laurea, diventa un bravo avvocato, che male c'è? Certo. Che male c'è. Dopodiché, poi, chiaramente, la scelta può essere strutturata. Si può indagare anche oggettivamente una serie di fattori che possono aiutare, non definire, perché la palla di cristallo non è stata inventata, ma aiutare sicuramente sì a definire quali potrebbero essere i percorsi di studio più indicati. E per questo ci sono, per esempio, dei test. Nei casi più critici, ma non mi sembra il caso di questo studente, ci possono essere i colloqui anche con psicoterapeuti. Per esempio, ci possono essere limiti nella scelta dati dalla propria stima, dalla stima del proprio lavoro e così via. Ma molto più semplicemente, nei casi comuni come questi, ci si può aiutare prima di tutto raccogliendo informazioni e poi evidentemente anche provando. Buttandosi, mettendo in conto il fatto che può andare bene e anche noi non succede nulla. Noi vogliamo sfogliare con lei il Quale Università delle edizioni Alfa Test, ma al tempo stesso leggiamo che cosa si può trovare dentro questa guida. Guardi, per un caso come questo il punto di partenza potrebbe essere il questionario di interessi con cui la guida si apre. Succede questo, che noi abbiamo tutti noi una percezione dei nostri interessi che non sempre corrispondono a quelli realmente avvertiti, perché gli interessi che noi riteniamo di avere sono anche il frutto delle convenzioni sociali, dell'ambiente in cui siamo, del gruppo degli amici, delle aspettative dei genitori, nel caso degli studenti e così via. Un questionario dà un'idea più obiettiva dei propri interessi, molto semplicemente. Viene chiesto allo studente di indicare un livello di interesse per una serie di attività che sono a loro volta ricollegate a studi propedeutici per svolgere poi quelle attività ed emergono in maniera anche abbastanza netta le differenze tra interesse e interesse verso alcune tipologie di studio o altre. Per cui è possibile che il ragazzo di questa lettera abbia magari un interesse in psicologia dichiarato ma non effettivo, per cui di fronte a un questionario di questo tipo emergerebbe un basso valore per gli studi di ambito psicologico e un alto valore per qualche facoltà più scientifica come ingegneria. Questa è una prima fase, dopodiché oltre agli interessi contano le attitudini. Se il ragazzo dice voglio essere un ingegnere perché mi piace l'idea di costruire un ponte, ma ahimè non ho capacità numerico-matematico, logico-attitudinali, ecco che quella situazione probabilmente non si verificherà mai, certamente. Ed è il meccanismo per cui nei test di ammissione verificano prima le competenze dello studente. Non soltanto nei test con numero chiuso, in realtà anche molte università fanno verifica delle competenze iniziali proprio per evitare delusioni successive di questo tipo. Alberto... Allora, insomma, non è facile. No, comunque. Non è facile. Io stavo ascoltando proprio questa descrizione di come in qualche modo uno studente può cominciare ad autodefinire verso quali studi è più portato, a indirizzare meglio la percezione delle proprie attitudini. E ripenso alla lettera che abbiamo visto. Effettivamente per uno studente di liceo, soprattutto classico, apparentemente tutte le strade sono aperte, sono possibili e quindi quando uno si domanda ma io cosa voglio fare da grande e ha funzionato molto bene a scuola in tutte le discipline, il dubbio è molto molto elevato per questi studenti ad alta prestazione. Mi sento poi di aggiungere una variabile di tipo psicologico, che secondo me è quella che manda più in crisi i genitori, cioè scegliere la propria facoltà universitaria significa aderire in modo quasi definitivo a un'idea di sé diventati adulti, cioè per la prima volta nella vita, invece di fare qualcosa che gli altri hanno deciso di, per te, hanno tu in fin dei conti puoi continuare a fare molto bene il liceo e a essere il figlio di mamma e papà che ti coccolano, ti proteggono, insomma hai proprio... sei ancora lì nella loro casa, non hai compiti e doveri specifici. Qua invece stai proprio per fare un grande salto che non è solo verso la facoltà che deciderà che lavoro farai, ma è anche verso il te stesso adulto che in funzione del lavoro che farai sarà la persona che avrai deciso di essere. Insomma, non si gioca più a quel che farò da grande, ma lo stai già facendo, no? Stai già facendo un passo che deciderà la tua sorte. E questa, secondo me, è una parte del problema. Cioè, nella mente di un adolescente, per la prima volta c'è uno scontro diretto non solo con una prova della vita, ma con un vero e proprio progetto di vita che gli altri non possono decidere per te. Dottor Pavoni, questo in molti genitori, ma anche in tanti ragazzi, genera veramente ancora più confusione e anche paura. Ci sono ragazzi che proprio che si bloccano. È vero. E vorrebbero rimandare questo appuntamento, non si sentono pronte. Allora, abbiamo iniziato a sfogliare quale università, e poi lo continueremo a fare perché offre sicuramente degli spunti, quindi chi vuole leggere o consultarlo, diamo i riferimenti, ma soprattutto dalla sua esperienza voglio trarre dei consigli utili per i genitori e anche per i ragazzi. Di fronte a questa situazione di inadeguatezza, di confusione, voglio fare tutto ma in fondo non so se sono capace, come possiamo muoverci? Consigli per i genitori, consigli per i ragazzi. Cominciamo dai genitori, che spesso, pur muovendosi evidentemente nell'interesse dello studente, possono essere dei cattivi agenti di orientamento. Mi spiego, riflettono per esempio convinzioni di un mondo del lavoro che non c'è più. Per cui per esempio in questo caso, nel caso del nostro amico, dove l'indecisione è tra ingegneria e psicologia, io mi aspetto che i genitori tra le due scelgano ingegneria perché, ed effettivamente è così, è una facoltà che dà maggiori prospettive occupazionali. Però non è l'unico criterio di scelta. E così facendo però possono condizionare il ragazzo. Io trovo molto giusta l'idea di valutare un ragazzo che sceglie l'università come la prima figura di se stesso da grande. È il genitore che spesso questo lo vede in maniera parziale. Cioè fa fatica ad accettare che il bambino non è più un bambino, che il ragazzo possa scegliere in maniera autonoma, possa avere delle convinzioni non necessariamente coincidenti con quelle di famiglia, e posso anche sbagliare. Eh sì. Posso anche sbagliare. Ma sai che noi vorremmo che tutelare e evitare che i nostri figli inciampino. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo tornati per orientarci, Alberto. Sì, siamo in ottime mani, mi sembra. Ah, sì, il molto. Nostro dottor Pavoni sa proprio tutto. I nostri ascoltatori non la vedono, ma Nicoletta Carbone sta scrivendo, sta prendendo appunti. No, tutto appunti, qui, è tutto qui. Perché questo è proprio... I miei neuroni sono agitati, cercano di muoversi all'impazzata. Chissà se questa lettera... C'è la mica scritta Nicoletta sotto mentite spoglie. La mia figlia piccola non ha fatto la maturità classica e non è indecisa su legge, ingegneria, psicologia. Devo dire che anche lei è molto indecisa e spazia. Su tutto il resto. Su ma tutto non... il resto, però ingegneria non l'ha citata per fortuna. E io ascoltavo il dottor Pavoni prima e ho proprio due immagini di famiglie tipiche per le quali vorrei una consulenza. La prima è... la famiglia che ha una tradizione familiare in una professione come quella del commercialista oppure dell'odontoiatra e i cui figli spesso si trovano quasi in automatico a cercare di entrare in quella facoltà che permetterà loro di continuare nel lavoro la tradizione di famiglia. Dottor Pavoni. Questo è un caso di una famiglia bellissimo se si vuole, no? Il figlio che vuole fare la professione del papà o della mamma. perché no? Perché si cita sempre il papà, ma perché non anche la mamma. Punto a lei, guardi. Detto questo, bisogna capire anche però le motivazioni, perché ci sono delle pressioni dietro questo. Tuo nonno era avvocato, io sono avvocato, abbiamo lo studio, eccetera, vai a fare legge. Attenzione, perché il ragazzo a quel punto si può sentire schiacciato da quasi un senso del dovere. Non sceglie più, non è più una scelta. La scelta è se si valutano più alternative, se ce n'è una sola, certo, dove la scelta. E a quel punto potrebbe scattare una forma successiva di ribellione, o anche peggio, perché per me è peggio, che non si ribella, che si laurea in qualche cosa che non gli piace, che non avrebbe mai scelto, per l'appunto, se non fosse stato condizionato dalla famiglia. E attenzione, perché il laureato ha 25 anni in qualche cosa che non è fatta per lui, e poi quando va in pensione? È recuperabile, 40 anni dopo. Sì. Secondo l'Istat riguarda 1 su 3 di coloro che sono laureati che lavorano, che sono scontenti della scelta fatta. Alberto, poi avevi anche il secondo caso. Sì, io ho un secondo caso che anche questo a me sembra molto frequente, e cioè c'è un figlio che è straordinariamente appassionato di storia, oppure di astronomia, e quindi sogna di fare la facoltà che gli permette proprio di entrare in modo molto competente, molto approfondito nella sua passione. I genitori però lo guardano e gli dicono: per l'amor di Dio, figlio mio, gli astronomi, fammi sapere, oltre a Margherita Hack, quanti sono quelli che possono vivere bene della loro professione. Quindi tieni questo come una passione e per il tuo ciclo di studi scegli una professione con la P maiuscola. Cosa diciamo a questi genitori? Io direi semplicemente questo. Nel 2040 ci sarà un astronomo famoso. O l'altro esempio, ci sarà uno storico famoso. Affermato, avrà scritto libri, riconosciuto come autorità. Se neghiamo al ragazzo la possibilità di diventarlo, gli abbiamo tolto questa possibilità. Questo non vuol dire evidentemente che tutti coloro che sceglieranno astronomia o storia troveranno facilmente lavoro o si affermeranno. Ma se non crediamo nei nostri figli a 19 anni, forse stiamo sbagliando noi. Dottor Pavoni, io vorrei però chiederle qualche consiglio per i ragazzi che hanno scelto, speriamo che abbiano scelto nel modo giusto, e decidono di frequentare, devono fare un test di ammissione, quindi devono prepararsi. L'abbiamo detto in apertura di programma, questa è un'estate in cui i ragazzi devono lavorare. In questo momento andare in vacanza non si può, soprattutto se il test di ammissione è alle porte. Come si orienta? Che consigli può dare? Che cosa dice AlfaTest a riguardo? Guardi, io le dico una cosa al di là di quello che come AlfaTest potrei suggerire, e cioè che una buona preparazione essenzialmente inizia con la scuola. Cioè, in altre parole, immaginare per esempio di affrontare il test di medicina, che comprende domande di matematica, chimica, fisica, biologia, logica, cultura generale, studiando soltanto nell'estate della maturità. Non ce la si fa. Non ce la si fa. Allora, l'idea è questa: programmare per quanto possibile inizialmente il lavoro, affiancare alla preparazione per l'esame di Stato conclusivo anche la preparazione, possibilmente su libri specifici, del test ammissione. Una volta che ci si è diplomati, ci si concentra solo su quello. Può sembrare antipatico dire devi studiare l'estate della maturità, però è una gara, cioè non c'è una soglia oltre la quale una persona viene ammessa o sotto la quale rimane fuori, ma ci si confronta con altri studenti che quella preparazione l'hanno fatta, hanno partecipato. Per esempio, io li vedo insegnando nei corsi a luglio, ma li vedo anche a gennaio, perché i corsi più lunghi AlfaTest iniziano a gennaio, li vedo a marzo, li vedo lungo tutto l'anno scolastico, li vedo subito dopo Ferragosto. Questi sono i concorrenti, con loro ci si confronta. Questo però, il fatto di sapere che ci sono ragazzi che si stanno preparando da gennaio, per uno che finita la maturità decide ma mi piacerebbe affrontare medicina, noi che cosa gli diciamo? Ormai è troppo tardi? Assolutamente no, si è fatto, lo ripeto, una buona preparazione scolastica. Dopodiché l'impegno potrà essere più pesante, vorrà dire che se uno veramente ha fatto poco dovrà considerare che quell'estate, l'estate della maturità, è da dedicare solo alla preparazione. Se ha fatto poco durante il periodo scolastico e continua a far poco durante l'estate, rimanga in vacanza a settembre, non vada a fare il test. Alberto. Stavo proprio riflettendo su due aspetti. Uno, purtroppo la competizione è molto molto dura, e lo dico proprio da docente, insomma, della facoltà di medicina. Mi rendo proprio conto che quelli che ce la fanno a entrare sono pochi, e quelli che restano fuori, tra l'altro, hanno straordinarie potenzialità, spesso quella professione, proprio il sogno della loro vita, eppure non ce la fanno. E quindi è brutto da dirsi, ma effettivamente bisogna arrivare molto molto preparati al test di ammissione. E la seconda riflessione che faccio è che davvero è cambiato qualcosa nella vita dei nostri figli, altro che bamboccioni, perché quando noi facevamo la maturità ai nostri tempi, quella era l'estate più bella della tua vita, cioè proprio un'estate di straordinaria spensieratezza, perché poi i corsi universitari quasi sempre cominciavano nel mese di novembre, quindi era pure un'estate lunghissima e priva di ogni impegno. Si possono prendere un'estate piena questi ragazzi. È davvero faticoso, perché se tu consideri non che farsi hanno rimandare al liceo. I test di ammissione praticamente agli inizi di settembre, e i corsi universitari cominciano molto prima rispetto al passato, quindi quest'estate diventa per loro, almeno per quelli che scelgono queste facoltà che hanno il numero programmato, diventa proprio una lunga corsa senza mai una sosta reale per tirare il fiato. Non tutte però le facoltà richiedono un test di ammissione, dottore. E alcune facoltà il test lo fanno nel periodo primaverile, per esempio Bocconi Luis hanno il test già a fine aprile, inizio maggio, e questo garantisce a chi lo passa poi la possibilità di non dover studiare durante l'estate. Non tutte le università hanno il test di ammissione, inteso come numero chiuso. Sì. Ma sono sempre di più, e questa è una cosa che in realtà è poco conosciuta, le facoltà che hanno un test obbligatorio all'inizio di settembre. Ed è un test importante, pur non essendo un test per il numero chiuso, cioè in altre parole, è anche possibile che un ragazzo consegni per assurdo la scheda del test completamente in bianco, non viene escluso, non c'è il numero chiuso, però va incontro a due spiacevoli conseguenze, che sono da evitare allora sempre grazie allo studio. La prima conseguenza è che nei casi più disastrosi l'università può sconsigliare apertamente l'immatricolazione, pur non potendo impedirla, consiglia al ragazzo di cambiare strada. La seconda conseguenza spiacevole è legata al fatto che se il ragazzo ha dimostrato di avere dei deficit importanti in alcune aree disciplinari, l'università può precludere la possibilità di frequentare alcuni corsi e poi l'esame di questi corsi. Per cui, per esempio, se in matematica il test è stato un disastro, il ragazzo non può frequentare il corso di analisi 1, dovrà recuperare il debito formativo che è stato dato in funzione del risultato negativo del test. Questo debito viene recuperato attraverso dei corsi di recupero che vengono istituiti in genere sempre dall'università prima del corso vero e proprio. Si concludono con un esamino, passando quell'esamino si considera saldato il debito. La prevenzione a questo passa anche attraverso questi test. Quindi prevenzione, mi piace, sì, questa parola. E prima di salutarci, Alberto, vogliamo così fissare qualche indicazione, proprio due o tre parole chiave come ami dare tu in chiusura di trasmissione? Ma direi che quest'idea di farsi una sorta di autotest, che significa riconosco quali sono le mie attitudini e per che cosa sono predisposto, è un ottimo punto iniziale. E ai genitori all'ascolto direi che probabilmente i nostri figli sono i migliori esperti del loro progetto di vita, vanno aiutati ma non vanno pilotati. Dopodiché noi siamo circondati dai materiali alfateste, direi proprio scegliersi una buona guida di orientamento come quale università, e se avete chiaro in testa qual è la facoltà che volete scegliere, allora prendetevi uno di questi libri che vi fa fare in simulata i test di ammissione e verificate con voi stessi qual è il vostro livello di preparazione. Se c'è molto da fare, datevi da fare. Dottor Pavoni, grazie per essere stato con noi, grazie dell'aiuto. Alberto, noi ci risentiamo in settimana, il prossimo sabato siamo di nuovo qui. In bocca al lupo, allora, cosa dobbiamo dire? Certo. Crepi. Comunque varrà la pena. Buona giornata da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai. Arrivederci, grazie.